586. Dolce alla napoletana. Questo è un dolce di bella apparenza e molto gentile. Zucchero grammi 120, farina d'Ungheria grammi 120, mandorle dolci grammi 100, uova numero 4. Le mandorle sbucciatele, asciugatele al sole o al fuoco e scegliendone un terzo delle più grosse, dividete queste in due parti, nei due lobi naturali. Le altre tagliatele in filetti sottili. Montate le uova e lo zucchero in una bacinella di rame o di ottone sul fuoco, alla temperatura di 20 gradi, battendole con la frusta più di un quarto d'ora. Ritirato il composto dal fuoco, uniteci la farina mescolando leggermente e versatelo in uno stampo liscio, tondo o d'ovale, poco importa, che avrete prima imburrato e spolverizzato con un cucchiaino di zucchero a velo e uno di farina uniti insieme. Ma sarebbe bene che lo stampo fosse di grandezza tale che il dolce, quando è cotto, riuscisse alto 4 dita circa. Cuocetelo al forno o al forno da campagna, a moderato calore, e dopo cotto e ben ghiaccio, tagliatelo all'ingiro a fette sottili 1 centimetro. Fate una crema con rossi d'uovo numero 2, latte decilite 3, zucchero grammi 60, farina grammi 15, burro grammi 10, odore di vaniglia. E con questa, a bollore, spalmate da una sola parte le fette del dolce e ricomponetelo, cioè collocatele insieme una sopra l'altra. Verrà meglio la crema se mettete al fuoco prima il burro con la farina per cuocerla senza farle prender colore. Poi, resa tiepida, vi aggiungerete i rossi, il latte e lo zucchero, rimettendola al fuoco. Ora bisogna intonacare tutta la parte esterna del dolce con una glassa, ossia crosta, e a questo effetto mettete a bollire in una piccola cazzaruola grammi 230 di zucchero e in 1 decilitro di acqua fino al punto che, preso il liquido fra le dita, appiccichi un poco, ma senza filo, e avrete un altro indizio della sua giusta cottura quando avrà cessato di fumare e produrrà larghe gallozzole. Allora ritiratelo dal fuoco e, quando comincia a ghiacciare, spremetegli 1/4 di limone e lavoratelo molto col mestolo per ridurlo bianco come la neve. Ma se vi indurisse fra mano, versateci 1 poco d'acqua per ridurlo scorrevole come una crema alquanto densa. Preparata così la glassa, buttateci dentro le mandorle a filetti, mescolate e intonacate il dolce, e con le altre divise in 2 parti, rifioritelo al di sopra, infilandole ritte. Invece della crema potete usare una conserva di frutta, ma con la crema riesce un dolce squisito, e perciò vi consiglio a provarlo.